24 di Giovanni Minoli. L'obiettivo del summit sul clima è contenere entro 2 gradi il riscaldamento globale, un obiettivo difficile. E sembra che Stati Uniti e Cina, i paesi più inquinanti del pianeta, siano disposti per la prima volta a fare la propria parte. Le associazioni ambientaliste sognano un accordo che vincoli giuridicamente tutti i paesi. La dichiarazione di principio non bastano più, fai col presidente Hollande. Da Parigi deve uscire un percorso nuovo, condiviso e vincolante. L'Italia dal 1990 ad oggi ha ridotto le emissioni del 23%. Abbiamo un piano di investimenti per 4 miliardi di dollari da qui al 2020. Le nostre aziende, a partire dalle più grandi, Eni ed Enel, sono in prima fila. Siamo leader nella geotermia, tra i leader nel solare e nelle biomasse. Dunque abbiamo molto da dire e da dare in questo settore. Secondo il Premier, l'abbiamo sentito, abbiamo ridotto emissioni del 23%, ma intanto, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'Italia invece è il paese europeo con il record di morti premature a causa dell'inquinamento dell'aria, con la pianura padana che si conferma l'area più colpita. Ecco, Paola Catampano, giornalista, scientifica, responsabile della comunicazione al CERN di Ginevra. Evidentemente, come ha detto Renzi, abbiamo molto da dire e da dare, ma anche da fare. È un obiettivo possibile quello tentato a Parigi? Sicuramente è l'obiettivo da raggiungere, perché è l'ultima occasione che abbiamo per poter correggere il riscaldamento globale. Vorrei fare un commento sui numeri di Renzi. Questo 23% in realtà è un numero che riguarda tutta l'Europa, non soltanto l'Italia. Corrisponde alle riduzioni delle emissioni di gas serra fra il 90 e il 2014 per l'Europa, come 28 paesi, quindi non soltanto l'Italia. Catapano, Ségolène Royal, ministro francese per l'ambiente, ha detto che la conferenza di Parigi è la miglior risposta alla tragedia del terrorismo. Insomma, perché? Perché il contesto drammatico di questi giorni ha rinforzato, se non altro, la solidarietà dei politici. Infatti sono arrivati 150 capi di Stato e di Governo ieri, certo, a Parigi. Una mobilitazione assolutamente senza precedenti. E tutti hanno fatto nel loro discorsino di 3 minuti lo stesso messaggio. Si sono tutti impegnati sul uscire da Parigi col risultato voluto. Ecco, lei ci crede? È un obiettivo possibile quello della riduzione del 2% delle emissioni? Ci vorrà un po' più di tempo di quanto Parigi vorrebbe, perché i programmi nazionali consegnati a Parigi da tutti i paesi, che sono più di 185 paesi, quelli che hanno consegnato i piani di riduzione delle emissioni vincolanti questa volta, sono dei piani che ci consentiranno da qui al 2030 di ridurre in realtà del 3,5%, per cui la condizione necessaria per arrivare ai 2 è quella di non solo approvare questi piani in modo vincolante, ma approvarli rivedibili ogni 5 anni, ecco, al ribasso. Ecco, quindi a proposito di clima e di terrorismo, che è l'atmosfera di Parigi, senta il ragionamento di Carlo d'Inghilterra, come lo ha riportato Franco Di Mare a Uno Mattina. Il principe Carlo, che in un'intervista concessa a Sky News England, ha dichiarato che la nascita dell'ISIS è dovuta ai cambiamenti climatici. In ultima analisi, l'ISIS sarebbe il prodotto finale dell'effetto serra. Il principe Carlo ha spiegato che l'aumento della temperatura dovuta all'inquinamento ambientale causato dall'uomo e dal consumo dei carburanti fossili ha prodotto la siccità che ha colpito la Siria e altre aree del pianeta, causando la migrazione di centinaia di migliaia di persone che si sono assiepate nelle città siriane. I centri urbani della Siria sono collassati sotto il peso sociale di tante persone, causando i problemi politici noti che hanno portato ai conflitti interni. Ragione ultima della nascita dell'ISIS, dunque, è il clima. Che cosa c'è dietro l'odio che gli uomini e le donne dell'ISIS manifestano nei confronti della cultura occidentale? L'effetto serra. Ecco, il principe Carlo è fuori dal mondo? No, in realtà il Principe Carlo si riferisce a uno studio molto serio che è stato pubblicato da poco dai Proceedings della National Academy of Sciences, fatto dalla Columbia University, che vede come la siccità che ha colpito la Siria fra il 2006 e il 2009 è stata la peggiore di tutte ed è dovuta al riscaldamento globale, ha causato uno spostamento demografico assolutamente molto più grande rispetto agli anni precedenti. 1,5 milioni di persone si sono spostate. Sì, ma il rapporto con l'ISIS è un po' tirato per i capelli, eh? No, in realtà no, perché io sono d'accordo, perché riscaldamento, desertificazione, gente che va via, povertà, migrazioni, alla fine la radice di ogni odio e violenza è sempre la povertà. Senta, di e quindi sì, no, non come è dice, così. Come dice il Papa, però, allora? Assolutamente sì. Senta, di questi accordi però, come quelli che si vogliono fare a Parigi, si parla dalla conferenza di Rio del 92, che è sfociata nel fallimento degli accordi di Kyoto. Ecco, che cosa ci fa pensare che questa volta le cose saranno diverse? Il fatto che gli accordi sono vincolanti e sono stati già approvati a livello nazionale e a livello europeo dai paesi che hanno presentato questi piani, perché Kyoto assolutamente non era vincolante, poi soprattutto il fatto che finalmente gli stati più inquinatori, come Stati Uniti, Cina e India, sono pienamente parte di questo accordo. Sì. La mobilitazione, abbiamo già evocato 150 capi di Stato presenti. D'accordo, a Parigi. Va bene, ok. Ecco, però gli accordi vincolanti, sappiamo che sono vincolanti fino a quando li si vuole considerare tali, pensi a Schengen. Diciamo, bisogna bisogna sperare soprattutto. No, c'è anche un altro problema, che non c'è alternativa oggi. E il riscaldamento globale è fra noi, l'estremizzazione del clima è già cominciata, gli ultimi 10 anni sono stati tutti, uno dopo l'altro, quello più caldo mai registrato, e secondo me la coscienza civile c'è, su è questo, maturata. La coscienza politica anche. Quindi lei è ottimista? Sì, ma c'è anche un problema dell'industria, l'industria dell'energia è vecchia, il nucleare che abbiamo oggi risale alla fisica di Fermi e quindi oggi l'unica opportunità vera di investimento sono le rinnovabili. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666. E adesso entriamo dentro una notizia, un'altra notizia ma legata in qualche modo alla natura e all'avidità dell'uomo. Mix 24. Dentro la notizia. Oh, finalmente, qui, ma l'olio è di quello... Benissimo, extra! Perché vedete, io passo soprattutto, ma l'olio deve essere olio, perché quando è olio mi piace assai. La truffa del falso olio extravergine continua l'inchiesta della Procura di Torino. Coldiretti, attenzione ai prezzi. Le imprese Carapelli, Bertolli Gentile, Sasso, Coricelli, Santa Sabina, Prima Donna e Antica Badia hanno utilizzato un'etichetta falsa. Olio extravergine di oliva, in realtà il contenuto delle bottiglie è di olio di oliva. Una frode per i consumatori, non un danno alla salute, ma alle tasche sì, visto che si trattava di olio meno pregiato e meno costoso. Io passo soprattutto, ma l'olio deve essere olio, perché quando è olio mi piace assai. Allora, olio di oliva semplice spacciato come extravergine, l'abbiamo sentito. Già nel 2014 il giornalista americano Tom Mueller aveva scritto il libro Extravirginità, un'inchiesta sul sublime e scandaloso mondo dell'olio d'oliva, poi ripreso anche dal New York Times con il titolo Il suicidio dell'extravergine. Ecco, Mueller, allora, casi come questi portano al suicidio dell'extravergine? Ma io credo che è una mancanza di rispetto per la qualità di un prodotto chiave della dieta mediterranea e dell'Italia. È veramente un autogol tremendo. Ecco, ma, tanti. Ma dalle sue indagini, qual è lo stato di salute del mondo dell'olio italiano? Ci sono due mondi, quello dell'artigiano che fa un olio splendido, che fa difficoltà a venderlo, perché c'è un altro mondo industriale che fa un olio pessimo, che a volte non è anche a legge, a norma, che fa una concorrenza sleale con quelli onesti. E quali sono le truffe più comuni legate all'olio? Le truffe più comuni sono l'olio deodorato, illegalmente modificato chimicamente per ridurre puzze in sostanza, è miscelare varie qualità di olio per creare un olio Frankenstein che a volte non è neanche norma. Queste sono le truffe più abituali. Ecco Müller, ma perché l'Italia, che è il secondo produttore di olio di oliva al mondo dopo la Spagna, ha il record anche di importazione con 66.000 tonnellate, con un aumento del 38% nel 2014 rispetto all'anno precedente? Perché? La realtà è che la produzione è molto frazionata. Il premiato di volume è di gran lunga quella della Spagna. Oramai purtroppo certo. C'è anche stato anche un abbandono da parte del governo italiano per quanto riguarda i produttori onesti. Ecco, ma è questo record delle importazioni che favorisce le frodi? Sicuramente, cioè tanto olio che arriva in Italia dalla Spagna, dalla Tunisia, che esce olio made in Italy oppure olio imbottigliato in Italia e fa un nome pessimo per l'Italia in tutto certo. Il mondo, non solo in Italia. Gli italiani, che sono, abbiamo detto, secondo i produttori di olio al mondo, in realtà non hanno una cultura dell'olio. Ci sono delle zone in cui si capisce cosa vuol dire extravergine veramente, ma più delle volte la gente compra in supermercato. L'olio del supermercato quasi sempre è un meno peggio. È legale e appena. Ma lei ne ha trovati tanti di produttori onesti che ce la faranno? Tantissimi produttori onesti piccoli. Ma riescono a farcela o sono destinati a scomparire? Allo stato attuale delle cose sono destinati a morire se non trovano uno sbocco estero. Questa è la triste realtà. Se il governo italiano e il Ministero dell'Agricoltura non fa la parte dell'agricoltore italiano e invece fa la parte dell'industriale neanche italiano, che bisogna capire che questi oli presi e chiamati in causa non sono italiani, sono certo. Di olive estere. Oramai queste etichette non hanno niente di italiano. Quindi si fanno gli interessi delle grandi multinazionali e invece di quelli dei produttori italiani. Esatto, cioè il Ministero dell'Agricoltura dovrebbe essere degli agricoltori, no? 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Dunque, la grande truffa dell'olio, secondo gli 007 italiani, quasi tutto l'olio extravergine che esportiamo all'estero e circa la metà di quello che viene venduto in Italia è tagliato con olio di provenienze diverse o di qualità inferiori e viene spacciato come extravergine. Per Tom Müller l'abbiamo sentito. Il punto è che al Ministero dell'Agricoltura dovrebbero esserci degli agricoltori, insomma almeno qualcuno che ne capisca e che dovrebbe proteggere i produttori onesti. Mario, questo è il punto? Dunque, per quanto riguarda la questione politica, secondo me ha poca importanza che ci sia un tecnico, sì, che ci sia un politico. È un modo di dire. Non è il ministro che poi alla fine determina. Il modo tutto. Di dire, bisogna capirci. Bisogna capirci, ecco. Sì, però non è così difficile capire la questione dell'olio extravergine. Cioè, deve essere un olio purissimo, non tagliato con altri oli. Punto. Adesso per sintetizzarla. Però non capita. Francamente. E non capita perché evidentemente c'è la filiera dei controlli. Lì che non funziona, i controlli all'origine, questo è il punto vero della ecco, situazione. Però nel frattempo, io conosco un sacco di produttori che lo fanno bene, facciamo certo, pure noi. Ma sono per piccoli, dire, a tuo olio, sì, sì anche tu certo. Lo fai l'olio Pietrangelo? Sì, buono. Certo. Buono da morire. Siciliano. Vabbè, siciliano. Ecco, nel frattempo però le indagini che sono partite dalla Procura di Torino stanno andando avanti, anche l'antitrust ha avviato 7 istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di altri marchi. Ecco, quindi la macchina dell'olio rovinato si allarga e rischia di travolgere anche la reputazione dei produttori onesti. Roberto Moncalvo è il presidente della Coldiretti, ha 33 anni ed è il più giovane tra i rappresentanti di imprese e lavoratori. L'ultima battaglia si è trovato appunto in mano riguarda l'olio extravergine d'oliva. Insomma, Moncalvo, chi difende i veri produttori di olio italiano? Prima cosa, tutelarli rispetto a questi comportamenti che sono come minimo pratiche commerciali scorrette che ingannano i consumatori e danneggiano loro, perché ormai abbiamo troppi marchi, ed è stato ricordato, che richiamano l'italianità, che erano italiani, cioè, non ma non lo sono più, e infatti oggi non c'è olio italiano all'interno. Questo crea inganno al consumatore e danno e danno d'immagine. Ecco, sette grandi produttori di olio, alcuni acquistati recentemente da gruppi stranieri. Può essere questo uno dei motivi della contraffazione? Cioè, al momento in cui si diventa stranieri si guarda meno la qualità? Beh, in questo momento c'è una grande fame di made in Italy, e ci sono troppi soggetti che ne approfittano. Che sono interessati. Acquisiscono marchi italiani, come minimo insomma spostano la proprietà all'estero, a volte delocalizzano anche gli stabilimenti, ma la prima cosa che fanno è lucrare sulla materia, certo, prima andata sulla a comprare olive di qualità scarsa. Ecco, ma dalla Procura di Torino le indagini che si stanno facendo sono passate ai tribunali di competenza dove ci sono i laboratori, ma l'ipotesi di reato avanzata, qual è esattamente? Beh, qui stiamo parlando, parte del danno d'immagine naturalmente. Qui stiamo parlando di una vera e propria frode in commercio, una truffa. Se le indagini, insomma, se le ipotesi delle indagini sono confermate, saremmo davanti a una vera e propria truffa e una frode in commercio. Quindi, Presidente, ma mi sbaglio? Qui siamo davanti a un caso nel quale sono gli stessi produttori che si autotaroccano il loro olio. Come se lo spiega? Qui stiamo parlando di un pezzo del mondo industriale che spesso non ha neanche più radici di proprietà italiana, appunto. Comunque che sceglie sistematicamente, vale per l'olio, ma potremmo fare ragionamenti analoghi purtroppo. Peraltro made in Italy, lo sappia, parmesan piuttosto che robe del genere. Dal latte a molti altri settori, dove si cerca di lucrare sull'immagine del made in Italy vendendo a caro prezzo grazie all'immagine di qualità, ma poi di fatto ingannando il consumatore e magari anche frodandolo se poi queste indagini vanno, insomma, ecco, confermeranno queste. Presidente, accuse. Un'ultima domanda, ma voi che fate? Noi andiamo avanti intanto a pretendere, noi abbiamo chiesto e ottenuto la legge salva olio, e questa legge oggi va applicata, perché se questa legge fosse applicata al 100% sicuramente gli enti di controllo avrebbero molta più possibilità di, come dire, intervenire in tempo. Quindi le leggi ci sono, le abbiamo ottenute grazie a mobilitazioni importanti, adesso vanno applicate ma chi impedisce che si applichino? Chi è che frena? C'è stata una lentezza nell'applicazione importante. Ma dovuta a cosa? C'è stata una lentezza da parte delle istituzioni nell'applicare questa legge qua. Oggi noi abbiamo tutto e dobbiamo applicarla, dobbiamo mettere in condizioni chi fa i controlli di applicarla tutta. Ecco, vi ricordo che leggo volentieri gli SMS che mandate, a patto che siano firmati. Ricordo che è meglio firmarli. Mario, senti, dice uno, scrive: l'artigiano produce qualità, l'industria produce business. Sì e no, nel senso che in teoria anche l'industria può fare grande qualità. Sì. Il problema è che appunto l'olio extravergine viene tagliato con altri oli, certo. E c'è una fortissima concorrenza tra paesi produttori nell'area del Mediterraneo, perché è là che si fa l'olio, Grecia, Spagna e altri posti che non sono. Insomma, le leggi ci sono, bisogna applicarle. La filiera italiana in teoria è quella della più alta qualità, questo non solo nell'olio, anche in altri settori. Il problema è che non controllano. E poi c'è il tema dell'etichettatura, che era stata da poco riformata, tra l'altro, e che adesso è di nuovo in discussione, che è tutto da vedere. Pietrangelo, tu? Mettere d'accordo artigianato e industria significa garantire la qualità, e con la qualità si crea il massimo del business, dell'affare, tant'è vero che l'olio d'oliva per l'Italia potrebbe essere quello che per esempio lo champagne è per la Francia, però dobbiamo ricordare che, pur essendo, faccio l'esempio siciliano, la Sicilia produce storicamente, quasi un simbolo, agrumi, non è in grado di avere neppure una fabbrichetta che fabbrichi succhi di agrumi. Senza senso. C'è. Ecco, intanto questo è anche perché se ne produce poco di olio in realtà, in Italia, esatto. E quindi se ne consuma tanto. Il vero se tema ne è che la resa, quindi è la ragione per cui la resa delle piante c'è bassa. Il taroccamento. In Italia l'estate scorsa un rap è diventato un tormentone. Io mi chiamo Rocco, vengo dal Marocco, se non mi compri le cose bello io ti crocco, vendo tutto quanto originale, vendo le collane, Armani e pure Dolce Gabbani, fresca, sì, il mio collane è bella, il tuo collane alla insomma, come dice Rocco nella canzone, si tratta di collane, Armani, Dolce Gabbani, insomma il mondo del tarocco tocca tutto il Made in Italy, non solo il cibo. Mario Catania è presidente della commissione parlamentare anticontraffazione. Ecco, Presidente Catania, a quanto ammonta il giro d'affari della contraffazione in Italia? Beh, le stime più credibili parlano di quasi 7 miliardi di prodotti contraffatti venduti in Italia, in valore naturalmente. Ecco, e quali sono le categorie merceologiche che vengono copiate di più? Non sfugge più nessun comparto alla contraffazione. Una volta era piuttosto concentrata sul circuito abbigliamento, tessile, moda, che tuttora è il bacino principale, ma ormai si fanno contraffazioni di tutti i prodotti in tutti i comparti. E dove vengono prodotti questi falsi prevalentemente? Nella maggior parte dei casi vengono dall'estero, dall'Asia, da paesi del Medio Oriente, soprattutto poi dalla Cina. Rimane però un filone di produzione italiana, sono le contraffazioni di maggior qualità, quelle di prodotti della moda, ad esempio, che spesso sono fatte in Italia. Ah, in Italia addirittura. Ecco, Presidente Catania, ma qual è la pena per chi produce merce contraffatta? Mi rendo conto che è quasi una domanda ridicola. Questo è uno dei principali problemi. La contraffazione in Italia, ma in fondo in tutto il mondo, è punita solo in modo molto ridotto. Le pene sono basse, non c'è paese al mondo, e l'Italia non sfugge, che consideri la contraffazione tutto sommato un reato minore. Ma un reato minore sia per chi la vende che per chi la compra? Beh, naturalmente per chi la vende, l'acquirente nella maggior parte dei casi non è nemmeno sanzionato penalmente. E per chi la vende comunque sono pene leggere. Sono pene leggere, non è considerato un reato grave, in realtà fa un danno enorme al sistema produttivo. Cosa serve questa legge? È uno dei problemi, ripeto, bisognerebbe appesantire il carico penale, ma soprattutto differenziare all'interno della filiera della contraffazione. Noi oggi trattiamo con le stesse ipotesi di reato l'ambulante in spiaggia e il grande criminale internazionale che organizza il traffico. E quindi che misure servirebbero per provare a contrastare realmente? Bisogna diversificare le pene e colpire pesantemente la grande contraffazione, cioè le filiere internazionali che muovono questo prodotto. Presidente Catania, un'ultima cosa, ma se si riuscisse a sconfiggere la contraffazione, quanto guadagnerebbe in più lo Stato italiano? Beh, moltissimo. C'è un mancato gettito fiscale perché tutta la contraffazione viaggia in nero. Quindi certo. Sono tra i 5 e i 6 miliardi di gettito fiscale che verrebbe recuperato. Per il mondo del lavoro sarebbe importante, perché si stima che siano circa 100.000 i posti di lavoro che perdiamo in questo modo. Ecco, ma c'è un dato in più rispetto all'anno scorso, che è aumentato dell'11,3% l'acquisto di abbigliamento contraffatto. Ecco Mario, quindi nei momenti di crisi alla fine più importante è il prezzo della qualità, insomma. Ma sì, e anche però in quelli, nei momenti floridi, in realtà la leva del prezzo alla fine è decisiva. Il problema, posso dire una cosa? Certo. Il consumatore, rispetto all'olio soprattutto, il consumatore non è abbastanza educato. Deve guardare le etichette, deve chiedersi da dove viene l'olio, deve chiedersi se il produttore è affidabile. Cioè, stai comprando una cosa che poi ingerisci, certo, solo sottolineare questo, Pietrangio, la salute. Pietrangio, che significato ha avuto l'olio di oliva nella storia del nostro paese? Beh, noi abbiamo tradito l'olio d'oliva soltanto in una fase della nostra storia, nel boom economico, quando si scoprì l'olio di semi o altri surrogati che vantavano una mitologia di leggerezza. In realtà l'olio d'oliva è l'elemento chiave anche della dieta mediterranea, è un alimento puro che è legato poi alla dimensione vera della nostra storia, che è quella rurale, contadina, quella di una civiltà che da sempre ha avuto questo legame con la terra. Non a caso gli oli migliori sono quelli che provengono da olive ancora acerbe, raccolte una per una a mano, quelle che vengono consegnate al frantoio immediatamente per evitare poi il vero nemico, che è l'acidità. Ecco. Ed è quello che ha sfasciato quel mercato. Infatti noi abbiamo la storia di chi produce olio ancora come una volta, che decide di dedicare la sua vita alla produzione del vero extravergine. C'è. Laris, cosa sono questi? Quello è un alabastro, l'altro è un bucchero. di che cosa sono fatti? Ah, non toccare che sono di argilla e sono molto fragili. Molti anni fa gli uomini che vivevano qui lo usavano per conservare l'olio. L'olio profumato di finocchio secco e frutto di lentisco. Un olio profumato? Sì, annusa, annusa, sentilo. Le donne lo usavano per farsi belle e gli uomini per essere più forti in combattimento, ma soprattutto è stato sempre il dono prediletto dagli dèi, perché, come è scritto, dona agli uomini la speranza e la salvezza. Giampaolo Sodano, dirigente d'azienda, ex politico, giornalista, diretto Rai 2, Canale 5, poi ha comprato 20 ettari vicino a Viterbo, un vecchio frantoio a vetralla, trasformato in un oleificio super tecnologico. Oggi produce vari oli, tutti extravergini, con cui ha già vinto molti premi. Ecco, quello che abbiamo appena sentito era Bud Spencer, protagonista del cortometraggio prodotto da lei. Giampaolo, anche a lei l'olio ha donato speranza e salvezza? Io penso di sì. Come si riconosce un buon extravergine? Beh, innanzitutto dal profumo e dal sapore. È il gusto. Quello che distingue un olio extravergine di oliva da altri grassi alimentari. Ecco, ma per arrivare a un buon extravergine, come quello di cui parla lei, da dove si deve cominciare? Da un frutto sano. Da una buona e sana coltivazione della terra, da una terra pulita, curata, da questo nasce un buon frutto sano e da questo nasce un olio nutriente e buono. Ecco, l'Italia è il paese dove, lo sappiamo, si consuma la maggior quantità di olio al mondo, eppure è anche il paese dove si tarocca più olio di tutti. Come se lo spiega? Molto semplice, noi produciamo troppo poco. Nel senso che l'Italia lo scorso anno ha prodotto circa 200.000 tonnellate di olio, quest'anno ne produrremo 300.000 facendo grandi sforzi, forse un giorno si potrà raggiungere anche i 400.000, sarà sempre la metà di quello che gli italiani consumano. Ma quindi basta una brutta stagione come quella dell'anno scorso per fare moltiplicare i casi di falsificazione, oppure c'è anche dell'altro? No, c'è soprattutto questo, c'è una grande domanda di questo prodotto, il prodotto ce n'è poco e allora in Italia è nata, unico paese al mondo, la più grande e strutturata azienda di confezionamento di olio di oliva. E siccome siamo anche il paese che ha una storia famosa nella produzione di questo prodotto, i grandi marchi, cioè Bertolli, Carapelli, Sasso e quant'altri, sono stati acquistati da grandi aziende spagnole o da fondi di investimento inglesi e poi a questo punto, sai... E quindi loro, a loro la qualità cosa. A loro la qualità interessa meno, interessa il Made certo, in Italy. E quindi ci facciamo del male da soli in qualche modo. Eh sì. Ecco, ma scandali come questo quanto pesano sui produttori più piccoli come lei? Che naturalmente avranno dei prezzi diversi anche. Beh, certo. Uno degli elementi che fa scegliere il consumatore di fronte allo scaffale di un supermercato è ovviamente il prezzo. Per tanti anni queste grandi aziende di confezionamento hanno creato insieme ai supermercati quello che io chiamo l'olio gadget, cioè un olio a 2 euro a bottiglia. È chiaro che io con 2 euro non riesco nemmeno ad accendere le macchine del frantoio, perché un buon olio extravergine di oliva non può costare al produttore meno di 6-7 euro. E quindi al consumatore... E quindi il consumatore ne spende almeno 10. Ecco, e quindi questi scandali pesano soprattutto su di voi e sul Made in Italy in generale. Ma non c'è dubbio, perché screditano il nostro paese e il suo prodotto. Ma produrre olio è un buon business, eh? Se io avessi scelto di fare l'olio per fare un buon business sarei un matto. Sono uno che ha fatto una scelta di vita per la speranza. Ecco, Marco da Livorno si lega a questa idea di speranza e dice: ci vorrebbe un marchio totally made in Italy che garantisca che tutte le materie prime hanno avuto origine nel nostro paese. Forse è una strada. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Mix 24. Tanti, tanti ascoltatori ci scrivono, sostanzialmente il messaggio è abbastanza univoco da Lorenzo Tiezzi, Valerio, Tanzarella, sostanzialmente si dice l'alta qualità richiede dedizione e lavoro manuale che l'industria fa fatica a dare. Questa è la sintesi un po' dei messaggi che abbiamo ricevuto. Pietrangelo, la canzone. Chiamami. Facile, ma adesso che ho bisogno io di farmi trovare. A chi dedichiamo oggi? Ci sono quelli che non chiudono occhio la notte, si sentono svuotati, Mario, a essere precisi, segati rispetto alla metà di sé. È un po' come accade, Mario, alla luna, quando diventa una fetta, poi una striscia, quindi una virgola, sparisce, riappare, insomma, ha chiamato Maddalena Robin, detta Rossana, e dedica Chiamami al suo generoso cugino, Cyrano de Bergerac. Dormire, Mario? Io non ci riesco, no? C'ho una giornata infernale. Proprio tremendo, ma tutte giornate infernali. Sì, no, infernale. Cioè, calmati, placati. No, sono calmissimo. Senti, la tua bolla cattiva oggi ce l'hai? No! Ce l'hai. No! No! Niente, no. Bolle senti cattive. Gli esci di sì, ma... sarebbe un gruppo di nonnetti oggi, però senti com'è i nonnetti. Ma per dire cosa? Per dirti cosa, i nonnetti sono forti. Che in queste ore si sta consumando un fatto molto importante, è in corso, ed è la battaglia dell'esercito iracheno per riprendersi Ramadi. Ramadi è una città che è sulla striscia, sulla linea che conduce verso Baghdad. C'è Ramadi, c'è Fallujah e poi c'è Baghdad. Quindi sono solo un centinaio di chilometri dalla capitale irachena. Ed è importante perché? È importante perché questa città era caduta nelle mani di ISIS. Se l'esercito iracheno adesso, in queste ore, riesce a riconquistarla, significa che forse nella strategia della lotta contro ISIS in Iraq sta cambiando qualcosa. Se non ci riesce, sono problemi grossi, perché consentirà ai terroristi dello Stato Islamico di rafforzare questa città, questa difesa e poi andare avanti. Poi c'è Fallujah, poi c'è Baghdad e poi non c'è più niente, perché nel senso c'è Bassora a sud, mi segui? Sì, sì. Tutto, quindi questo è molto importante, spero che i giornali domani ne diano conto. La cosa diciamo curiosa, per il gioco del destino, è che in queste ore il Parlamento inglese invece decide sui raid in Siria. Il voto è domani. Subito dopo dovrebbero partire i bombardieri inglesi. Bomberderanno, vedrebbe che bombarderanno. Sì, è il dato politico più importante, anche questo io mi aspetto che venga commentato sui giornali domani, perché voglio dire, quando che è salito... Che importanza dai ai giornali, mi impressiona. Sì, perché i giornali continuano ad essere, ad avere un ruolo di agenda setting. Va bene, presso la classe dirigente. Forse non li leggono le persone comuni, ma io penso che abbiano ancora una fondamentale importanza per la stessa democrazia. E quindi Jeremy? E quindi il buon Jeremy Corbyn è andato in minoranza nel suo partito, questa è la notizia. Lui che era contro la guerra alla fine ha dato libertà di voto ai suoi parlamentari, è un'inversione di rotta rispetto alla linea dura che aveva adottato. Laburisti, e i laburisti voteranno per Cameron. Vediamo poi come va il voto, domani lo raccontiamo, certo, eccetera. Però molto interessante quello che è accaduto in queste ore nella politica inglese da una parte, quello che sta accadendo in Iraq e quello che sta accadendo in Siria e in Libia, sulla Libia quale credo che torneremo domani. Domani ne parleremo a fondo, e intanto Salamino. Quando ero uguaglione assai mi piaceva e sentì la novena a notte Natale. Giusto per mettere i puntini sugli i per mettere i pastorelli al posto loro, al posto loro nel presepe, anche perché Maria Stella Gelmini canta Tu scendi dalle stelle e fa bene, e fa bene. Allora io vi vorrei leggere, vi vorrei dare notizia del comunicato della Associazione Islamica Mahdi, sì, sì, riguardo al Natale. Come musulmani veneriamo Gesù Cristo come parola di Dio e spirito proveniente da parte sua. Ne attestiamo la nascita miracolosa dal seno della Vergine Maria, narrata anche dal nobile Corano. Ne attendiamo inoltre il ritorno come Messia al fianco dell'Imam Mahdi, che soverchierà le forze dell'Anticristo. Sebbene esprima una teologia diversa da quella cristiana, la dottrina islamica prevede il diritto dei credenti a celebrare le proprie festività nei paesi musulmani senza che ciò possa essere loro negato o impedito. E come cittadini italiani di fede islamica auspichiamo che in un paese di tradizioni cristiane si esibiscono i simboli religiosi e si commemorino le festività legate a questa tradizione. Per noi sono altre le festività più buie e meno sentite, quali Halloween, che non rappresentano un elemento di progresso o di emancipazione, bensì un sintomo di decadenza e di disperazione che certamente non auspichiamo. Anzi, desideriamo contribuire a medicare insieme, ciascuno con gli strumenti e con le specificità che lo contraddistinguono. Invitiamo dunque a non presumere da parte nostra, né tantomeno attribuirci alcun pregiudizio negativo circa la presenza di simboli religiosi cristiani o la commemorazione di festività cattoliche. Al contrario, auspichiamo che questi possano anzi costituire per i nostri concittadini una rammemorazione della comune patria celeste ed una forma di fedeltà agli insegnamenti delle tradizioni di fede a fronte dell'emergenza del nichilismo e della profonda crisi spirituale che ci troviamo a fronteggiare insieme. Giusto per mettere i puntini sugli i e i pastorelli nel presepe. Mi sembra una cosa importante di comprensione e di dialogo, di ponte, insomma, fra le religioni, fra tanta confusione che invece regna e strumentalizzazione di ogni genere. Mario, la bolla? Sì, un altro classico. Pure questi sono ommetti, eh? Ma tu eri per i Beatles o per i Rolling Stones? Io per i Rolling Stones. Wow, rockissimo! Senti, dai. A me non me la fai la domanda. No! E tu sei per Battiato, lo sappiamo. No, eri per i Beatles o eri per i Rolling Stones? Eri teppiste dei sogni. E beh, questi allora non erano male. Senti, senti. Vabbè, allora, qua c'è in corso un'altra battaglia che noi abbiamo ben raccontato a Mix 24 ed è la battaglia del prezzo del petrolio. Il 4 dicembre si riunisce l'OPEC, sempre per dare scenari e strumenti per capire, per chi vuole capire ovviamente, la nostra officina è sempre aperta. E ripeto, il 4 dicembre riunione dell'OPEC, i prezzi sono in salita, qualcuno si aspetta un cambio di direzione dell'Arabia Saudita, che è quella che ha manovrato, certo, il prezzo ribasso, e la produzione, ribasso, no? Sì. Il famoso gioco dell'omino, sì, nel pozzo, certo, come l'avevamo chiamato. Da, sì, più di un anno le compagnie petrolifere sono alle prese con una situazione per molti drammatica, e non solo per le compagnie ma anche per gli stati che fondavano i loro ricavi di massima sul petrolio. Che ce la faranno? Vedremo il 4, vediamo questa riunione. E comunque è interessante raccontarlo perché le stesse, certo, compagnie petrolifere stanno attraversando, l'ho letto stamattina, il momento Kodak. Sai che la Kodak, cioè, è sparita, sì, improvvisamente. E quindi c'è la necessità per chi lavora con gli idrocarburi di, cioè, diversificare. Beh, quindi, questo è interessante, sì, investimento anche rispetto a quello che capita a Parigi, mi sembra. Certo, come no. Canzoniere. In giubba o in isparato, voi siete sempre voi. Muta, come chi pensa casi remoti e vani, mi strinse le due mani con tenerezza immensa, e in quella familiare mitezza di sorella forse intravidi quella che avrai potuto amare. 800 24 00 24, numero verde per chi vuole indovinare, 349 238 6666. SMS Mario, c'hai una notizia? Sì, abbiamo una notizia appena arrivata. La Germania e il governo, il Consiglio dei Ministri, ha approvato la missione militare di sostegno alla Francia. Quindi Berlino manderà 1200 soldati, ancora non si sa in quale base operativa, una fregata per proteggere la portaerei francese Charles de Gaulle, aerei di ricognizione Tornado e mezzi per rifornire il carburante in volo e bombardieri aerei. Quindi questa cosa è un altro pezzo, oggi tedeschi, domani camera. E intanto 800 24 00 24, e intanto l'anteprima. Nuovo clamoroso colpo di scena nella vicenda della nave Achille Lauro. I quattro terroristi palestinesi che hanno dirottato la nave alla mezzanotte sono arrivati in Italia nella base NATO di Sigonella in Sicilia. Nel corso della notte il presidente Reagan ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il Presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi. E Craxi ha detto: ma dobbiamo mettere tutti e quattro in galera, non possiamo mettere due in galera e due sotto sorveglianza. E Reagan ha detto: ma perché no? E io l'ho tradotto dicendo: no, no, assolutamente, tutti e quattro in galera. Pacatezza, quasi ironia nel racconto dei protagonisti della crisi di Sigonella. La crisi che ha portato sull'orlo di una rottura diplomatica gli Stati Uniti di Reagan e l'Italia di Bettino Craxi. Da quei giorni di ottobre dell'85 sono passati 30 anni e, come in un giallo che si rispetti, tutti i protagonisti rivelano brandelli di verità. Ma tutti, presidenti e ministri, vertici militari e consiglieri di Stato, terroristi e mediatori, si sentono al centro di un'incredibile vicenda cominciata a bordo dell'Achille Lauro. Sigonella, un intrigo internazionale, un avvincente spy story, qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Mix 24. E adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste più importanti del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, 14 settembre 2015. Dieta mediterranea e cancro del seno in donne con un alto rischio cardiovascolare. Che la dieta mediterranea sia la dieta di scelta da utilizzare tutti quanti, ormai lo sappiamo e credo ne abbiamo parlato tante volte, ma che la dieta mediterranea possa avere anche altri effetti, segnatamente in questo caso sul cancro del seno, beh, è una roba che è stata studiata in una popolazione molto controllata, perché era una popolazione con un forte rischio cardiovascolare. Donne, 4.000 e rotte donne con un alto rischio cardiovascolare, gli si è dato per qualche anno un litro di olio a settimana per essere assolutamente certi che mantenevano la dieta mediterranea, di cui l'olio è uno dei componenti fondamentali. Però si è andati a vedere anche se, insieme al diminuito rischio cardiovascolare di questa dieta, si avevano altri effetti, ed essendo donne, su quello che è uno degli spauracchi fondamentali della vita delle donne, che è il cancro del seno. Allora, dopo un follow-up, cioè averle seguite per una media di quasi 5 anni, si è visto che c'erano 35 nuovi casi di cancro. Però questi cancri erano 1 per 1.000 donne per anno se prendevano la dieta mediterranea con l'olio. 2 per 1.000 donne per anno se prendevano la dieta mediterranea con le noci, che è un altro, noci, nocciole, mandorle, che è un altro centro cuore della dieta mediterranea, ma 3 per quelli che invece non prendevano né olio né noci. Quindi a dire che aumenta di 3 volte l'incidenza di cancro in chi è che sta fuori da una dieta corretta come quella mediterranea e assume quindi meno olio. E intanto Rosalinda da Roma per il canzoniere. Rosalinda, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora dica. Gozzano, una risorta dai colloqui. Bravissima. Giusto. Rosalinda. Che fa a Roma di bello lei? Sono una precaria della scuola, però forse ero, non so più. Adesso che dire. Stiamo a vedere con queste nuove classifiche. Come aspetto va una dedica da Buttafuoco, visto che Rosalinda, certo, è personaggio shakespeariano. Giusto. Buttafuoco arriverà. È prodigo di dediche, però ne ha sempre solo una. Grazie, signora.